Yes! E allora, se per caso stai sentendo questa canzone dallo stereo di un amico, dal cellulare di un amico, vai su oniro.it e scarica, anzi no, compra tutto il disco, perché questo non si scarica più. Questa è la risposta. Se mi chiedi perché spacco, questa è la risposta. Anche se guadagno un quarto di quanto mi costa, chiuso in studio tutto l'anno a farlo senza sosta. Se alla fine viene bene non lo faccio apposta. Non lo faccio apposta, non lo faccio apposta. Chiedilo alla gente nostra se vuoi la risposta. Non lo faccio apposta, non lo faccio apposta. Questa è la risposta, questa è la risposta. Faccio solo questa merda pure se mi costa tanto. Da sempre in giro, non solo adesso che sto andando. Sono una bomba di chronic, tu sei un pianto. E in più vai dove tira il vento, sei un super santo. Ricerco il colpaccio, con M disperdo il contagio. Siamo sopra una Lambo, te stai col piaggio. Per il fatto il viaggio, ora ti mangi la polvere e me ne compiaccio. Siamo la risposta, il mio è un gancio, il tuo è un abbraccio. Incido per restare, tu sei solo un'altra cometa. Ho rime che valgono tanto, le scrivo su carta moneta. Su una recensione, sono un coglione, su un altro un poeta. Ma quando mi ascolti senti il futuro come quando parla un profeta. Fumo come un capo indiano, grida ah, siamo la risposta ma non ci trovi su Yahoo. Fa in versione il chiasso è dell'abilità. Tu, fuoco sul palco, quando suono ti sembra di stare in bla. Tu, ciao. Se mi chiedi perché spacco, questa è la risposta. Anche se guadagni un quarto di quanto mi costa, chiuso in studio tutto l'anno a farlo senza sosta. Se alla fine viene bene non lo faccio apposta. Non lo faccio apposta, non lo faccio apposta. Chiedilo alla gente nostra se vuoi la risposta. Non lo faccio apposta, non lo faccio apposta. Questa è la risposta, questa è la risposta. Faccio solo questa merda pure se mi costa un rene. Sono la risposta, Iverson la tripla allo scadere. Penso a non scadere, che domani si muore, che non ho proroghe, no. Se vuoi sapere come chiami il coroner, hey. Nessuno ci ha dato le mance, non ci hanno mai carezzato le guance, no. Per il rap ho solo spezzato le lance, adesso vi squarto le pance. Mando le ciance, sto sempre fatto, almeno non vedo sto piatto che piange. Rime di saggio, spaccato le trance, a fine rodaggio ho staccato le flange, hey. Mo non dormo, confondo notte con giorno. Dio non ha risposte, un po' sordo, sai che concordo. Fumo mentre compongo, sì. Rollo due etti di afghano. Torno dal futuro, John Connor del rap italiano. Se pensi che non preferisca la cruda realtà, la bugia che funziona. C'è merda che non mi pressiona, mi sa che è sbagliato persona. Se cerchi del rap fatto bene, siamo la risposta, non c'è più storia. Pompa questa per mezz'ora, senti come suona, suona. Se mi chiedi perché spacco, questa è la risposta. Anche se guadagni un quarto di quanto mi costa, chiuso in studio tutto l'anno a farlo senza sosta. Se alla fine viene bene non lo faccio apposta. Non lo faccio apposta, non lo faccio apposta. Chiedilo alla gente nostra se vuoi la risposta. Non lo faccio apposta, non lo faccio apposta. Questa è la risposta, questa è la risposta. Yes, questa è la risposta. E vai così, hater proof. Yeah, chiamateli a suonare dal vivo sti bischi.